Passando il centro di gravità della vita dalla conoscenza al volere, dal logos all'ethos, la vita si fece sempre più instabile. Alla persona singola si richiese di reggersi su se stessa, ma questo può farlo solo una volontà che sia realmente creativa nel senso più assoluto della parola, proprietà questa che è soltanto della volontà divina. Si pretese dall'uomo un contegno che presuppone l'uomo essere Dio. E siccome egli non lo è, si insinua nel suo essere una specie di convulsione spirituale, un atteggiamento di violenza impotente che talvolta appare tragico, ma negli spiriti dalle piccole proporzioni riesce strano, anzi ridicolo. Su questa mentalità ricade la colpa del fatto che l'uomo d'oggi assomiglia tanto spesso a un cieco che brancola nel buio. Giacché la forza fondamentale su cui egli ha appoggiato la sua vita, vale a dire il volere, è cieca. La volontà può volere, agire e creare, non però vedere. Di qui procede anche tutta quella irrequietudine che non trova riposo in nessun luogo. Nulla perdura, nulla rimane saldo, tutto si muta e la vita è un perenne divenire, un anelare, un ricercare, un pellegrinare senza posa. La religione cattolica si oppone con tutta la sua forza a questa mentalità. La Chiesa perdona ogni altra mancanza più facilmente che un attentato alla verità. Essa sa bene che se uno manca, ma non intacca la verità, egli può ritrovarsi e riprendersi. Ma se egli intacca il principio, in tal caso è lo stesso santo ordine della vita che è elevato dai cardini. La Chiesa ha pure guardato sempre con profonda diffidenza a ogni concezione moralistica della verità del dogma. Ogni tentativo, infatti, di fondare il valore di verità del dogma sul suo valore per la vita è nel suo intimo anticattolico. La Chiesa pone la verità, il dogma, come un dato assoluto, riposante su se stesso, che non ha bisogno di nessuna fondazione sulla base dell'ambito morale o pratico. La verità è verità perché è la verità, è in sé e per sé indifferente ciò che la volontà le dice, o se essa possa dare inizio con la verità a qualche intrapresa. Il volere non deve giustificare la verità, né essa ha bisogno di giustificarsi dinanzi a esso, bensì quello deve riconoscersi del tutto incompetente di fronte a questa. Il volere non crea la verità, ma la trova. Deve riconoscersi cieco e perciò bisognoso di luce, della guida, della potenza ordinatrice e formatrice della verità. Il volere deve fondamentalmente riconoscere il primato della conoscenza sulla volontà, del logos sull'ethos. Questo primato è stato frainteso. Non è questione qui di una preminenza di valore o di dignità, e neppure si vuol dire che il conoscere sia per la vita umana più importante che l'agire. E ancor meno si sono volute dare indicazioni se una cosa debba essere colta con il pensiero o con l'azione. L'uno ha tanto valore, dignità e importanza per la vita complessiva quanto l'altra. Dipende dalle disposizioni individuali il fatto che nella vita di una persona l'accento cada sul conoscere piuttosto che sull'agire, e una disposizione vale quanto l'altra. Si tratta qui piuttosto di una delle questioni supreme della filosofia della cultura, e precisamente a qual valore nel complesso della civiltà e della vita umana spetta la funzione direttiva. Si tratta dunque di un primato d'ordine, non di dignità, significato o frequenza d'uso. Se però si esamina più da vicino e più a lungo la questione, si avverte facilmente che la formula primato del logos sull'ethos potrebbe anche non essere la decisiva e suprema. Forse si deve dire piuttosto, nell'ambito complessivo della vita, il primato definitivo deve averlo non l'agire, bensì l'essere. In fondo, non si tratta dell'agire, ma del divenire. Non ciò che si fa, bensì ciò che è, costituisce il valore supremo. E il valore definitivo non sta nella visione del mondo moralistica, ma in quella metafisica. Non nel giudizio sul valore, ma in quello sull'essere, non nello sforzo, ma nell'adorazione. Questi pensieri però conducono fuori dell'ambito di questo libretto. La questione ulteriore, se non debba essere riconosciuto un supremo primato dell'amore, sembra rientrare in un'altra serie di considerazioni. La decisione relativa è forse tale che può ritrovarsi nelle possibilità esaminate più sopra. Ammesso infatti che la verità sia il valore decisivo, non è con ciò ancora stabilito se essa sia la verità cercata nell'amore oppure una fredda maestà. L'ethos può essere un dovere della legge, come presso Kant, oppure un dovere che scaturisce dall'amore creativo. E anche rispetto all'essere rimane aperta la questione se esso ci stia dinanzi come alcunché di inesorabilmente incombente, in suprema istanza, oppure esso stesso costituisca l'amore che supera ogni misura, in cui anche l'impossibile diventa possibile, a cui la speranza può appellarsi contro ogni speranza. Tutto questo vuol significare il problema se l'amore non sia la realtà più grande, e in verità lo è. Niente altro, infatti, che questo ci ha annunziato la lieta novella. In questo senso, dunque, per il primato della verità, ma nell'amore, deve essere risolta la questione della quale ci siamo occupati. Non appena questo primato venga ristabilito, si offre anche il fondamento della sanità spirituale. L'anima, infatti, ha bisogno di un terreno assolutamente saldo su cui reggersi. Essa ha bisogno di un appoggio da cui possa spingersi oltre se stessa, e questo punto non può essere che la verità. Il riconoscimento della verità oggettiva è il fatto fondamentale della liberazione spirituale. La verità vi farà liberi. L'anima ha bisogno di quella liberazione interiore in cui la concitazione del volere si placa, l'irrequietudine dell'anelito si calma, il grido della brama tace, e questo si verifica fondamentalmente in prima linea nell'atto intenzionale in cui il pensiero riconosce la verità, lo spirito ammutolisce dinanzi alla maestà sovrana della verità. Il dogma, il fatto della verità incondizionata che sussiste indipendentemente da ogni giustificazione d'utilizzabilità pratica, immobile ed eterna, è davvero qualcosa di ineffabilmente grande. E se esso in un'ora fortunata s'accosta un poco più da vicino allo spirito, quest'ultimo sente come di toccare la garanzia misteriosa della sanità del mondo, intuisce che il dogma è in certo modo il guardiano dell'essere tutto, che esso è veramente e realmente la roccia su cui tutto riposa. In principio era il Verbo, il Logos. Perciò il tono di fondo della vita genuina e sana è contemplativo. L'energia della volontà, dell'azione, della ricerca, per quanto intensa possa diventare, deve riposare sopra una profondità che è calma, che s'affissa nelle immutabili verità eterne. Questo è il sentire che ha le sue radici nell'eternità. Esso ha la pace. Possiede quella serenità immune da tensioni che rappresenta la vittoria sopra la vita. Non ha fretta, ha tempo. Può pertanto attendere e lasciar crescere. Questo atteggiamento spirituale è veramente cattolico. E se è pur vero che per qualche riguardo il cattolicesimo è arretrato rispetto alle altre confessioni, transeat, esso non poteva partecipare alla furiosa caccia a cui si è abbandonata la volontà sciolta da ogni pastoia, dopo aver spezzato le leggi eterne. Esso ha però conservato qualcosa di insostituibilmente prezioso, il primato del Logos sull'ethos, e in tal modo d'accordo con le leggi immutabili d'ogni vita. Quandunque in tutto questo discorso non si sia ancora parlato della liturgia, tuttavia tutto fu detto per essa. Nella liturgia il Logos ha la preminenza che gli spetta sulla volontà. Di qui la sua mirabile placidità, la sua calma profonda. Di qui si intende come essa sembri totalmente risolversi in contemplazione, adorazione, esaltazione della verità divina. Di qui la sua apparente indifferenza alle piccole miserie quotidiane. Di qui la sua scarsa preoccupazione di educare immediatamente e di insegnare la virtù. La liturgia ha in sé qualcosa che fa pensare alle stelle, al loro corso eternamente uguale, alle loro leggi inviolabili, al loro fondo silenzio, all'ampiezza infinita in cui si trovano. Sembra però soltanto che la liturgia si preoccupi così poco delle azioni e delle aspirazioni e della condizione morale degli uomini, poiché in realtà essa sa assai bene provvedervi. Chi infatti vive realmente in essa si assicura la verità, la serenità e la pace nell'intimo dell'essere.